Boh, comincio io? Sì. Allora, benvenuti, ciao a tutti e grazie di essere qui. Io sono Zenone, sono bellunese, lavoro a Trento, all'Adige, e Jacopo Valenti e Andrea Tomasi sono due colleghi, entrambi giornalisti. Andrea è anche un collega di, diciamo, vicino di scrivania. Purtroppo. Passiamo le giornate a insultarci a vicenda, perché lavoriamo tutti e due nella redazione di cronache dell'Adige, che è il quotidiano, diciamo, uno dei due quotidiani di Trento, mentre Jacopo lavora prevalentemente a un sito web, che è la versione trentina di today.it. Dico bene? Boh. E ha lavorato in passato anche lui con l'Adige, peraltro. Hanno seguito le vicende di una serie di scandali riguardanti l'inquinamento ambientale nel territorio del Trentino e in particolare, ma non solo, della Val Sugana, di quella che in Trentino viene considerata già Bassa Val Sugana, direi, cioè la zona di Borgo, di Borgo Val Sugana e dintorni, dove c'è fra l'altro un impianto siderurgico, un'acciaieria. E ci sono state delle vicende anche giudiziarie legate sia a questa acciaieria sia ad altri fenomeni, diciamo, che hanno avuto un impatto sulla qualità dell'ambiente, dell'aria e del terreno in zona Borgo e dintorni. Sostanzialmente questo libro si occupa e racconta, utilizzando largamente le carte giudiziarie, questa vicenda, che poi loro ci racconteranno nel dettaglio, e anche altre questioni. Ed ha, secondo me, una valenza, che va oltre quello che è, diciamo, il racconto dei casi specifici, trattati, perché, disegna, un'architettura, diciamo, istituzionale, che ha mostrato le criticità emerse poi attraverso queste inchieste giudiziarie, e quindi si interroga su tutta una serie di questioni, meccanismi di controllo, a monte, a valle, in mezzo, chi controlla chi fa che cosa, quali sono le istanze a disposizione dei cittadini, chi si muove, quando si muove, se viene interpellato dai cittadini oppure perché non si muove, e così via. E quindi c'è veramente una prateria di riflessioni, di analisi che potrebbero indurre, potrebbero, ma al momento non mi risulta che lo abbiano fatto, il politico, soprattutto il legislatore, a interrogarsi appunto sugli equilibri, diciamo, di controllato, controllore in questo caso, e anche sugli intrecci tra sfere pubblica e privata, legate a produzioni ad alto impatto, in questo caso, o ad altre attività semplicemente non legali, specialmente in territori delicati come quello, diciamo, delle valli strette della montagna, con una, diciamo, morfologia particolarmente complicata, che spesso aggrava le conseguenze di questi comportamenti che sono narrati in questo libro. Però io non mi dilungherei troppo a lungo, poi magari, se siete d'accordo, facciamo qualche siparietto, vi faccio qualche domanda trabocchetto, e invece darei a voi la parola non so chi vuole Vai, cominciare. comincia Andrea, perché Ecco. prassi consolidata. Sì, Tra parentesi, noi abbiamo fatto una presentazione qualche mese fa a Borgo Val Sugana, che è un po' l'epicentro di questa cosa, ed era dove la questione è molto sentita, ed era stata una presentazione molto, diciamo, anche affollata dal punto di vista della partecipazione, perché c'erano forse 150 persone, credo. E poi magari vi racconteremo, mi piacerebbe chiedere anche a loro qualcosa proprio sul versante, ruolo dei cittadini, e anche su come si sono organizzati e poi anche disorganizzati in quel contesto. E comunque adesso, ecco, magari se tu ci racconti innanzitutto come mai siete arrivati a fare sto libro, insomma. Sì, innanzitutto grazie per essere qui. E il libro, lo diciamo sempre, nasce dalla voglia di raccontare come sono andate esattamente le cose. di raccontare come sono andate, che cosa sta, cosa è successo, cosa sta succedendo e che cosa rischia di accadere nel bel Trentino. Noi siamo abituati a parlare del Trentino come il Trentino della farfalla, l'aria pura, i campi, le farfalle, appunto, le mucche. Tutto questo c'è, ma c'è anche dell'altro e lo abbiamo scoperto grazie all'intervento della Procura della Repubblica di Trento e grazie al Corpo Forestale dello Stato, che noi parliamo degli anni, per capirci, 2007-2011, hanno alzato il coperchio su una pentola di veleni, e non è un modo di dire. Nel senso che si parla di traffico di rifiuti illeciti provenienti da mezza Italia, principalmente nel nord Italia, dei grandi gruppi industriali, rifiuti che sono stati stoccati per anni, nello specifico nell'ex Cava Zaccon, che era sito di ripristino ambientale, Cava Zaccon, Roncegno, Valsugana, nella cava di Sardagna, che si trova sostanzialmente ai piedi del monte Bondone. Poi c'è un filone che tratta dei fumi dell'acciaieria Valsugana, e a questo è collegato, si parla anche delle scorie depositate negli anni, tutto rigorosamente a norma di legge, nei terreni della Valsugana. Nello specifico noi parliamo della Val di Sella, un capitolo, diciamo, dei capitoli a parte su quello, Val di Sella, dove sostanzialmente sopra c'è la famosa cattedrale vegetale, Artesella, tutto fantastico, se non che sotto, ed è cronaca, c'è l'inferno sostanzialmente, perché ci sono stati negli anni depositi di queste sostanze provenienti da produzioni siderurgiche, che, come ha detto il sindaco di Borgo Valsugana, sono un problema anche perché ogni volta che fai un buco di qualsiasi genere trovi roba. E quindi noi abbiamo raccontato le inchieste giudiziarie, quindi ci siamo attenuti agli atti giudiziari, da questo punto di vista, come dire, siamo blindatissimi, e li abbiamo incrociati con la cronaca vera e propria, quindi scartabellandoci tutti gli articoli di giornali scritti anche in parte da noi negli anni, e infilandoci anche, come dire, il filo rosso, che è un po' il racconto di questo Trentino che, come diciamo nel sottotitolo, non t'aspetti, di questo Trentino che è molto più vulnerabile di quanto ci piace far credere a noi stessi, punto primo, noi come trentini, e all'esterno. Dico noi stessi punto primo proprio perché, e noi lo diciamo, ce lo siamo detti durante il lavoro che abbiamo fatto insieme nei giorni liberi, di notte principalmente e di domenica, e perché appunto noi trentini siamo in qualche modo le prime vittime di questa martellante e stupenda, intendiamoci, campagna pubblicitaria sulla bellezza della farfalla, salvo poi scoprirci meno sani e meno belli, per parafrasare la famosa trasmissione, scoprire che non siamo, pur con gli strumenti dati dall'autonomia speciale, quindi anche dal denaro che, come voi sapete, scorre a fiumi, pur avendo tutti gli strumenti a disposizione per difenderci e per dimostrare veramente che abbiamo questa autonomia ed è giusto che ce l'abbiamo, salvo scoprire che non siamo stati in grado di difenderci. E da qui nasce appunto la voglia di raccontare come su una timeline, su una linea del tempo, per cui chi vuole capire, leggendo questo libro, pecco di presunzione, ma a questo punto mi importa poco, con questo libro riesce a capire, nel senso che semplicemente anche uno interessato, semplicemente leggendosi le cronache dei giornali locali, dopo un po' si perde, perché c'è l'articolo in cui si parla dei sigilli messi alla acciaieria piuttosto che alla cava, poi il giorno dopo c'è la mezza smentita, il giorno dopo c'è la smentita della smentita e la precisazione, e mano a mano, come voi sapete leggendo i giornali, mano a mano l'articolo scende, scende, scende, scende, fino a quasi a scomparire dalla pagina. Qua dentro c'è tutto condensato, perché abbiamo cercato nei limiti del possibile di renderlo, come dire, anche leggibile, digeribile, anche se di digeribile c'è poco qua dentro, mettendoci anche un po' il nostro stile, un po' di punzecchiature, un po' di pepe su qualcuno. Raccontiamo anche quelli che sono un po' di retroscena politici, quindi le reazioni politiche che ci sono state, e parlando a voi, io sono sposato da una veneta, vi dico che la prima reazione che c'è sempre, sempre, sempre in questi casi, sarà anche il periodo, sarà che siamo in costante campagna elettorale, ma è anziché dire ben vengano gli inquirenti, la reazione è condivisa, spesso anche dai cittadini, quantomeno non quelli colpiti, nello specifico quelli della Valsugana, è attacco all'autonomia, ma come si permettono questi di venire a casa nostra e dirci come dobbiamo fare le cose? E questi sì, sono venuti a casa nostra perché le segnalazioni ai nostri forestali erano state fatte, ma nessuno si è mosso. E questa è cronaca mai smentita, per cui i cittadini, tramite le associazioni, ma non solo tramite le associazioni, si muovevano, dicevano guardate che c'è un traffico strano di camion in quella cava, le telefonate arrivavano, le lettere arrivavano, però non si capisce perché magicamente nessuno poi si muoveva. Ci è voluto un ispettore del Corpo Forestale dello Stato, della sede di Enego, che vive in Valsugana ma lavora in Veneto, che ha permesso di, come dire, dare il gancio al NIPAF di Vicenza e quindi ha permesso alla PM Alessandra Liverani, che è tra le maggiori esperte, quantomeno in Trentino, del traffico dei rifiuti, di muoversi e di scoprire tutto quello che c'era da scoprire. E la reazione politica, e non solo politica, è stata, anziché dire prego accomodatevi, prendete un caffè, fate pure, è stata, oddio oddio, il complotto, che poi non si è mai capito chi sarebbe il disegnatore del complotto. I nemici dell'autonomia. Ecco. Tu volevi fare una introduzione? Io posso solo aggiungere a quello che ha detto Andrea, il fatto che, in parte l'hai detto tu all'inizio, le carte giudiziarie ci sono servite perché attraverso le perizie dei consulenti della procura e del GUP, quindi perizie super partes fatte in contraddittorio, e le sentenze e gli articoli di giornale, non solo emerge quello che è il problema ambientale relativo alle inchieste, ma emerge anche un certo modo di fare politica che normalmente siamo abituati a vedere fuori dai confini del Trentino, dove ci sentiamo appunto più bravi, più belli degli altri, spesso volentieri. E invece, per fare qualche esempio, ci sono personaggi della pubblica amministrazione che, pur magari non essendo coinvolti a livello penale nei procedimenti, sono stati beccati al telefono in atteggiamenti quantomeno discutibili, con pezzi di imprenditoria che poi è finita nelle inchieste condannata, e queste persone sono state promosse per esempio dal servizio rifiuti al servizio autonomie locali, che è un servizio molto importante perché coordina le comunità di valle che sono, come si può dire, dei comprensori, ecco. È successo che il principale indagato nelle inchieste, che è Simone Gosetti, che è stato condannato in primo grado e poi in appello, dove la condanna è stata resa ancora più dura rispetto al primo grado, bene, questa persona lavorava, nonostante una condanna di primo grado, su un sito di bonifica a Rovereto, che è a 30 km da Trento, in un'area Siris, l'area Siris che era un'area da bonificare. Questa persona è stata condannata in primo grado e ancora si occupava della messa in sicurezza di questo sito. Che altro, quattro funzionari dell'APA, che è l'Agenzia Provinciale per la Protezione Ambientale, quindi l'ente che dovrebbe occuparsi di controllare che cosa succede in Trentino a livello ambientale, queste persone vengono indagate, non si riesce a dimostrare il dolo perché manca la prova regina che queste persone hanno ricevuto qualcosa in cambio per avere un atteggiamento quantomeno a volte omissivo nei confronti degli indagati. Bene, due di queste persone vengono poi incaricate di presiedere il comitato di controllo per il sito di Monte Zaccon. Altro esempio, dopo le oblazioni da parte degli ex vertici dell'acciaieria Valsugana nel 2010, parte un'altra inchiesta sulle emissioni delle acciaierie, ancora una volta da parte dei comitati cittadini, ancora una volta da parte del Corpo dello Stato. Quindi è come se il sistema dei controlli non avesse reagito a dovere dopo queste inchieste. Ecco, attraverso le carte giudiziarie si può avere anche una fotografia di come è stata gestita nel caso specifico da parte della politica trentina tutta, perché ci sono pezzi della provincia, pezzi dei comuni interessati da queste inchieste, dirigenti pubblici che hanno avuto un atteggiamento un pochino borderline o se non altro condannabile dal punto di vista etico. Quindi è stato importante per noi andare dentro l'argomento, perché ti permette di avere una cartina al tornasole di quella che poi è la realtà dei controlli in Trentino e del fatto che sostanzialmente ci sentiamo migliori, ma in realtà forse siamo uguali agli altri, non siamo diversi rispetto ad altre situazioni che si sono verificate nel resto d'Italia con dinamiche simili, ecco. Io volevo chiedervi se è possibile fare un passo indietro per farci capire qual è lo scenario in cui ci si trova di fronte come cittadini, per esempio, delle zone interessate, quindi stiamo parlando della Val Sugana e della zona attorno a Borgo, poi c'è il filone che riguarda un'area sopra, vicino a Trento, appena sopra Trento in collina, che è un'altra discarica di cui magari poi parleremo, però il nucleo di questa cosa è la Val Sugana. Quindi lo scenario è che abbiamo dei cittadini che si rendono conto che qualcosa non funziona e questo stato, diciamo, di questa comunità, quanto dura nel tempo prima che effettivamente qualcuno vada a vedere se questi sospetti sono fondati? Cioè, qual è la genesi, qual è lo scenario che si trovano poi i forestali venuti appunto dal Vicentino? Diciamo che tutto, la premessa fondamentale è che per quanto riguarda l'acciaieria Val Sugana ci sono associazioni ambientaliste come il WWF, come Italia Nostra, che nel corso di 30 anni hanno fatto battaglie contro l'acciaieria Val Sugana, che è, come dire, un impianto di produzione industriale nel mezzo di una valle con una tradizione agricola ultradecennale, quindi già questo, insomma, è una cosa abbastanza impattante di per sé, anche solo passarci davanti e guardarla, insomma. Detto questo, diciamo che quello che emerge è che nel momento in cui nel 2007 la gestione di Cava Zaccon, che era un sito di estrazione della pietra, una cava, passa di mano fra una società e l'altra, si comincia subito a notare che aumenta vorticosamente il numero di camion che smaltisce delle sostanze in questo sito. Quindi i residenti di Roncegno, che non sono stupidi, quantomeno non tutti, sentono che qualcosa non funziona anche dall'odore dell'aria. E quindi preoccupati vanno alla stazione forestale più vicina facendo presente la cosa. Questa segnalazione cade nel vuoto, poi ne vengono fatte altre, fino a quando un residente di Roncegno, che conosce un sottufficiale del Corpo dello Stato trentino ma che lavora ad Enego, preoccupato lo avvisa e dice: guarda che, insomma, è un periodo che passano molti camion tutte le ore del giorno e della notte, ci sono questi odori strani, non si capisce che cosa sta succedendo. Allora questo sottufficiale del Corpo dello Stato, con un suo collega di Enego, arriva a Roncegno, fa un rapido controllo e effettivamente si rendono conto che qualcosa non funziona. E questa, diciamo, è la partenza della prima delle tre inchieste, l'inchiesta Tridentum, che si occupa appunto della cava di Roncegno e di quella di Sardegna sopra Trento. La faccio breve, secondo le perizie della Procura e del GUP, quindi anche perizie super partes e una perizia dell'Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale commissionata dal Ministero per l'Ambiente, fra il 2007 e il 2009 vengono grossomodo smaltite circa 400.000 tonnellate di rifiuti nella cava di Roncegno. Secondo sempre queste perizie, grosso modo il 90%, più del 90% di questi rifiuti non dovevano essere messi lì, perché erano rifiuti industriali, erano scorie di acciaieria, erano fanghi di cartiera, erano rifiuti contenenti stirene, piombo, idrocarburi, in un posto che doveva essere, come dire, riempito, una cava che doveva essere riempita, poi terrazzata per farci, che ne so, magari una coltivazione agricola, eccetera. Ecco, quindi questa è la partenza, e già la partenza è strana, perché già lì ti rendi conto che gli organi di controllo provinciali non solo non hanno controllato, ma non si sono nemmeno interessati, e se si sono interessati qualcuno a un certo punto gli ha detto di disinteressarsi di queste cose. E da lì che entra in gioco il Corpo Provinciale dello Stato, parte questa inchiesta, e poi questa inchiesta, come un filo rosso, piano piano comincia a far saltare diversi tombini. Il primo tombino che salta è l'acciaieria, perché... Cioè, tu volevi dire il Corpo Forestale dello Stato. Il Corpo Forestale, ho detto provinciale? Scusa. E fa saltare questi tombini perché? Perché si rendono conto che che una certa parte di queste sostanze che viene depositata a Roncegno viene dalle acciaierie Val Sugana, e quindi arrivano in acciaieria, e in acciaieria scoprono poi che l'acciaieria si appoggia ad alcune ditte di Movimento Terra per liberarsi delle scorie. Lo diceva Andrea prima, la legislazione ambientale in Italia è molto farraginosa. Mi sembra che il testo unico è del 2006. Prima di questo spartiacque si poteva sostanzialmente fare di tutto. È per questo che in Val Sugana si scava e si trova l'impossibile, perché negli anni 80 i depositi di acciaieria o i depositi industriali potevano essere macinati, mescolati con terra buona e buttati sotto un metro di terra, solo che poi le conseguenze le vedi a 20 anni di distanza. Questo è un po' l'iter, ecco. Scoperchiando una cosa, poi a catena ne sono uscite altre, e in via informale quello che noi abbiamo saputo dagli inquirenti è che loro hanno dovuto fermarsi a un certo punto, perché era impossibile stare dietro a tutte le varie cose che poi sono emerse. Noi raccontiamo della Valle di Sella, raccontiamo di Villagnedo, raccontiamo di zone dove sono stati buttati rifiuti, poi ricoperti in fretta e furia, e poi le conseguenze le pagano i cittadini. I cittadini che, questo purtroppo va detto, purtroppo è una constatazione, è un dato di fatto, c'è una spaccatura molto forte in Valsugana fra chi preferisce la tutela dell'ambiente e chi invece preferisce il posto di lavoro sicuro in acciaieria. E questo è legittimo, perché io mi metto nei panni di un operaio, soprattutto in un momento come questo, rimanere senza lavoro è veramente difficoltoso. Stiamo parlando di una realtà che però dà lavoro a... a un centinaio di persone su un turno solo, perché una volta facevano tre turni, adesso lavorano molto meno. Stiamo parlando di un impianto su cui la provincia autonoma di Trento ha investito molto, sia in termini di immagine sia in termini economici, cercando di contribuire al miglioramento dei filtri, per esempio, al miglioramento della sicurezza all'interno dell'impianto. Però diciamo che se era comprensibile la scelta politica di mettere un impianto industriale in una zona come la Valsugana 40 anni fa, lo è meno adesso, con la consapevolezza ambientale che ci dovrebbe essere, perché un impianto del genere, tu per tutelare 100 posti di lavoro, poi hai delle conseguenze ambientali che non puoi ignorare, no? E la prova che questa cosa è un cortocircuito è il fatto che appunto c'è un'inchiesta e un processo fra tre giorni con 150 parti civili che si sono costituite, famiglie, e dall'altra hai gruppi Facebook che invece sostengono le acciaierie. C'è una lotta intestina in paese, una spaccatura, e la politica cavalca molto questa cosa, no? Quindi questo è un po' il panorama che c'è. Non esiste, come dire, un organismo super partes istituzionale che dica: signori, è successo quello che è successo, prendiamo una decisione, vediamo se si può fare una riconversione, cosa che è stata detta diverse volte sull'impianto per esempio di Borgo Valsugana, vediamo di trovare un altro modo per impiegare questa forza lavoro, per dare lavoro a queste persone. E poi un'altra cosa importante: non è detto che non possano coesistere la tutela della salute e il diritto al lavoro, ci sono tanti esempi nel mondo, no? E quindi non si capisce perché in una situazione come quella trentina, con la nostra autonomia e i nostri soldi, non si riesca a trovare un punto d'incontro. Non esistano dati aggiornati per quanto riguardano i tumori. Il registro tumori, sono stato ieri a una conferenza stampa, aggiornato al 2006, quindi non puoi stabilire una correlazione diretta, non ci sono dati disaggregati comune per capire se c'è una correlazione fra le industrie e le malattie. Una cosa che a noi ha fatto parecchio impressione, e qualcosa nel libro mettiamo, è il fatto che durante le nostre visite a Borgo Valsugana, spesso e volentieri passando per la piazza guardavamo i necrologi, e colpisce il fatto che spesso e volentieri vedi necrologi di ragazzi di 28-30 anni morti di leucemia, morti di cancro, e qualche domanda te la fai, insomma. Ecco, dal punto di vista epidemiologico, sennò... cosa c'è di diciamo inoppugnabile, di certificato? Inoppugnabile dal punto di vista della provincia? Dal punto di vista, certo, della provincia. Che non esiste una correlazione reale, che la causa dell'inquinamento in Valsugana è il traffico. Ma d'altra parte anche no? Le mele non hanno i pesticidi. Le mele non hanno i pesticidi. Fanno nulla, quindi siamo a posto. Sì, poi anche lì magari sulle mele si può dire che quella famosa polemica che è nata è paradossale, perché quel medico di Verona che è stato querelato perché ha detto quelle cose porta a porta, ha letto un rapporto di Legambiente che era stato redatto con i dati di tutte le agenzie provinciali e regionali per l'ambiente, quindi quei dati lì gliel'ha dati l'APA di Trento a Legambiente, lui li ha semplicemente letti, no? Però è lesa maestà, non si può dire in televisione che le mele del Trentino sono coltivate con un certo numero di pesticidi. Poi io non sono un medico, non sono un epidemiologo, quindi non posso dire che i pesticidi sono collegati a... Quello che so per certo è che i comitati della Valle di Non sono abbastanza ai ferri corti per questo motivo, per esempio l'irrigazione intensiva che viene fatta con i pesticidi, per una certa concentrazione più elevata di altre zone del Trentino di sostanze in falda, per una serie di allergie nei bambini che si sono verificate, per problemi a cani o gatti che girano nella zona. Quindi c'è un problema di, come dire, no? Correlazione sanitaria e produzione industriale o produzione agricola intensiva. Dal punto di vista della provincia, per arrivare alla tua domanda, la cosa che viene detta è che è tutto a posto, che tutto funziona benissimo, che non c'è nessun problema. E la cosa che stona è che però dei comitati cittadini, come è successo in Valsugana, che si mettono a raccogliere 10.000 euro di tasca loro per andare in Germania in un laboratorio di riconosciuto prestigio internazionale e fare analizzare le stesse cose che ha fatto analizzare la provincia con dei criteri universalmente riconosciuti, bene, i risultati della provincia dicono una cosa e i risultati dei comitati ne dicono un'altra totalmente opposta. È possibile che ci siano due verità totalmente diverse su campionamenti fatti teoricamente con un criterio che dovrebbe essere quello generalmente riconosciuto? Quindi dal punto di vista dei comitati e dei loro, diciamo, collaboratori scientifici, chiamiamoli così, tipo il dottor Cappelletti, così, sì. qual è loro invece, che tipo di lettura danno dal punto di vista dell'impatto sanitario di questa? Loro sostengono che ci sia indubbiamente una correlazione fra, e questo lo dicono portando, come dire, come prova, testi scientifici, no? Che noi in parte riportiamo, portando esami pubblicati su riviste scientifiche di fama internazionale, facendo per esempio notare il fatto che l'acciaieria di Borgo è circa 200 metri, 250 metri in linea d'aria alla scuola elementare, e sui davanzali della scuola elementare sono stati trovati polverini che sostanzialmente è come se io mi mettessi a fare un aerosol davanti a un tubo di scappamento della macchina, no? C'è un problema di fondo che i comitati sollevano, lì come nel latte per esempio degli animali, come nell'acqua del fiume Brenta, dove l'acciaieria scaricava in libertà senza nessun tipo di restrizione. E poi non so se Andrea vuole... Poi sì, volevo aggiungere una cosa, sì. Parlavi del latte degli animali, poi c'è la questione del latte materno. La forza di questi comitati per esempio è data anche dal fatto che nei comitati ci sono i medici per l'ambiente, quindi... sono riusciti a farsi sentire molto di più in quanto medici anche della popolazione. Non so voi, però quando a me un medico parla io ascolto con quattro orecchi, non con due, per cui loro sono partiti con questo vantaggio tra virgolette, e i medici hanno messo in discussione i dati che venivano presentati, proposti, infiocchettati con le cornicette dalla provincia nelle varie conferenze stampa. Per esempio, mettevano in contraddizione i dati esposti riguardante la presenza di diossine nel latte materno, perché si faceva notare: tu provincia dici che il latte materno della mamma che abita nella zona della Valsugana è in fondo lo stesso, la stessa qualità, le stesse concentrazioni di diossina della mamma che abita a Trento città. Una è una realtà urbana e una è una realtà di campagna pura. Quindi questi elementi, che detta così magari può sembrare banale, sono elementi che hanno permesso a noi giornalisti per primi, ma poi al cittadino, come dire, di capire un po' anche la barzelletta che stavano raccontando. E la barzelletta iniziava a diventare stucchevole perché la raccontavano un po' troppo, forse un po' troppo male, e poi la condivano con massicce dosi di camomilla, perché... noi lo diciamo sempre alle presentazioni, i comitati sono stati accusati di fare terrorismo. Ah, ma voi siete terroristi, spaventate la gente. E queste accuse sono venute anche, per esempio, dai rappresentanti della Lega per la lotta contro i tumori, che uno non se l'aspetta, insomma, che venga da lì l'accusa. Eppure è venuta anche da lì. E quindi abbiamo da una parte quelli che ci danno il terrorismo, no? I caffeinomani, quelli che ci danno le dosi di caffè massicce, dall'altra parte invece la camomilla, ma non le bustine, tir di camomilla, tanto che diventano quasi ridicoli, perché qualsiasi cosa succeda, la prima cosa che ti senti dire è: ma no, non c'è pericolo per la salute. L'abbiamo sentito dire veramente in tante salse, anche per cose che non c'entravano assolutamente niente, per cui la gente manco si preoccupava, però così per, come dire, prepararsi comunque la schiena, no? Si gioca d'anticipo, ma non c'è pericolo per la salute. Ah beh, l'ha detto l'assessore, sarà vero. Magari su questo, se volete, vi leggo rapidissimamente un passaggio proprio di uno di questi medici per l'ambiente, il quale dice: ben nota e accettata scientificamente è la relazione fra inquinamento e patologie tumorali. Il 54% dei tumori non trova spiegazioni plausibili se non legate a fattori ambientali. E qui la fonte è un medico francese, mi pare. Sì, bel pompe. Altra cosa, è nota inoltre la relazione fra il particolato e la cancerogenesi e come il particolato ricco di metalli, cioè quello che esce dai fumi di acciaieria sostanzialmente, sia maggiormente in grado di innescare i processi cancerosi, aumentando la produzione di radicali liberi. Poi più avanti, parlando proprio di relazione fra lavoro in acciaieria e come dire, indice di mortalità, dai dati sulla mortalità degli operai che hanno lavorato per almeno un anno nello stabilimento, nel periodo che va dall'84 al 2009, è emerso che l'età media alla morte era di 55 anni. L'aspettativa di vita media, che generalmente coincide con l'età media della morte, in quel periodo era di 72 anni. Su 22 decessi degli operai dell'acciaieria di Borgo Valsugana, di cui si conosce la causa di morte, 10 erano causati da tumore, il 45%, a fronte di una percentuale provinciale del 33%. Ben 6 i decessi per tumore polmonare, 27%, a fronte di una media provinciale dell'8%. Quindi c'è una differenza, no? sui dati notevoli, direi. Dal punto di vista poi delle cose che sono state invece appurate nei processi e quindi ciò che effettivamente è diventato verità giudiziaria, che sbocco ha avuto tutto questo capitolo dell'inchiesta di cui voi parlate? Beh, ci sono delle per tumore, come paragone per altre malattie da avvelenamento? No, sì, certo. Però, meno letale. Se pensa che a livello giurisprudenziale è letale, quindi magari. Però se pensa per esempio che l'unica sostanza considerata la giurisprudenza cancerogena è l'amianto. Insomma, strada ce n'è da fare, insomma, probabilmente. Quindi probabilmente anche per quello che si prende come riferimento il tumore, sì, perché no, è come dire le percentuali, ma sì, come in effetto sempre quello. In che senso? Dico, no, una bronchite. Insomma, la bronchite. No, ma la bronchite. Ma in questi casi. La malattia respiratoria, allergiche, facciamo un test. Sì. In questo caso sì, perché i fumi si respirano. Anche emissioni anche nel tempo, portate, per cui. No, ma son tante le voci. Quello che noi, per esempio, facciamo notare è che nella ricca provincia autonoma di Trento, dove veramente, detto voi, forse voi non avete la misura di quanti soldi vengono investiti in varie cose. Noi lunedì mattina andiamo in provincia per delibere, la giornata delibere, che è una rottura di palle spaventosa, però si va nell'ufficio della provincia e si scartabellano una a una tutte le delibere, tutte le determine dei vari servizi, della giunta provinciale, dei dirigenti. E delle determine dei dirigenti dei vari servizi. Per capire se ci sono notizie, poi sta naturalmente alla sensibilità del singolo giornalista, ma è impressionante anche cose che magari poi non diventano notizie nel senso di stampate, perché poi c'è una scelta che sta anche sopra di noi, un caposervizio, un direttore, ma fa impressione la quantità di denaro che viene investita in varie cose. Quando prima si parlava della indagine epidemiologica e dell'incidenza tumorale, e torno al tumore, comune per comune, la scusa del ma non ci sono i soldi può reggere in altre zone, non può reggere da noi, dove usiamo sempre questo esempio per spiegare come vengono spesi, una rotatoria, ce ne sono di bellissime in Trentino, una rotatoria costa in media in Trentino 2 milioni di euro, quando tu domandi ma scusa come fa a costare 2 milioni di euro che bastano, basta una moneta da un euro, con tutto rispetto per geometri e ingegneri, ma insomma giri e la rotatoria è fatta e ti spiegano, ma ci sono i sottoservizi. Quindi potremmo parlare a lungo di questo. Per quanto riguarda la risposta alla tua domanda, in realtà in parte ha già risposto Jacopo. Per quanto riguarda Gosetti, che è questo broker dei rifiuti, siamo arrivati alla sentenza d'appello, è stato condannato in appello anche per la cava di Sardegna, dove noi siamo stati anche recentemente. E dovete immaginare questo abitato di Sardegna, molto bello peraltro, veramente ad un tiro di schioppo da Trento, insomma il posto ideale se vogliamo, collegato con una funivia, insomma un piccolo paradiso se vogliamo, e c'è questa cava e la gente è preoccupatissima e sono 3 anni che chiedono un incontro di informazione con la provincia, che in linea d'aria non è tanto lontana, con il comune, con dei tecnici per sapere che cosa sta succedendo e che cosa accadrà a loro e alle loro famiglie, se c'è pericolo, visto che l'inchiesta ha dimostrato che là sono depositate 285.772 tonnellate di rifiuti che vanno considerati contaminati e quindi possono essere una potenziale sorgente di danno ambientale, punto. Sono andati, hanno chiesto e niente, 3 anni che si gira a vuoto con i criceti su una ruota. Siamo stati invitati da un'associazione, noi due, a presentare il libro, perché il libro sta andando molto bene e non siamo neanche noi che ci proponiamo, sono i vari comuni, le varie realtà che ci dicono venite a presentarlo e raccontate come stanno andando le cose, e magicamente si palesano il presidente della circoscrizione, su Trento ci sono 12, il comune di Trento è diviso in 12 circoscrizioni, su questo Gian Antonio Stella ha avuto di che ridire, visto l'iperproduzione di organi di governo, quindi circoscrizioni, comune, provincia, comunità di valle, insomma ne abbiamo finché vogliamo, regione, vabbè, chiusa parentesi, il presidente della circoscrizione e l'assessore all'ambiente del comune, che appunto mai si erano fatti vivi e improvvisamente sono venuti con un documentino a contestare in parte quello che noi stavamo dicendo, salvo poi fare brutta figura perché emergeva come dire che il pericolo e come dire l'insicurezza esiste ancora, si parla di mettere in sicurezza la cava, ma neanche tutta, ma solo un fronte, che è quello indagato, fatto con i carotaggi dalla Procura della Repubblica e quindi dal Corpo Forestale dello Stato. Già su questo si potrebbe discutere. Hanno affidato, c'è un'analisi fatta da una società di rilievo internazionale, noi non discutiamo, io massimo rispetto per chi lavora nei vari settori, però c'è una società che ha detto va tutto bene, si può intervenire e si può come dire, lavorare sulla cava, non si sa ancora che cosa ne vogliano fare, sembrava facessero un parco gioco per i bambini, le mamme, le carrozzine, e sostanzialmente si... hanno fatto l'analisi solo su questo fronte di cava, certezze non ce ne sono, hanno pure annunciato che avrebbero ampliato i codici CER, per cui giustamente gli è stato detto scusate, voi allargate i codici CER e noi ce li sogniamo ormai la notte, il che vuol dire che potete, che si può lasciare dentro tutto quello che c'è, di tutto e di più. Quindi siamo veramente, da questo punto di vista, siamo veramente allo sbando. Noi abbiamo anche contestato dicendo guardate però che voi parlate della cava come se fosse una sciocchezzuola, ma non avete cercato lo stirene, non avete cercato il cromo, perché quelle sostanze ancora ci sono. Quindi questo è il quadro, gente che non si sente più sicura, mentre prima, vi assicuro, per noi parlare dell'APA, l'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente, anche come giornalisti, fino a poco tempo fa voleva dire parlare, non dico del Vangelo, ma insomma... di un sottovangelo in chiave trentina, sì, nel senso che si diceva, vabbè, ho detto l'APA, a posto, sono tutto a posto. La gente ha iniziato, come dire, a seguirle queste vicende, questo libro aiuta anche un po' a ricostruirle, le vicende, come sono andate, e non ci si fida più, forse anche arrivando all'eccesso delle volte, però sapete, la fiducia te la giochi una volta, poi è difficile come il tubetto del dentifricio, no? Il dentifricio una volta uscito, rimetterselo dentro non ce la fai. E quindi, come dire, siamo in una fase per cui i rifiuti, parlando della cava di Sardegna, di questa località di cui vi stiamo parlando, rimarranno là. Cava Zaccon, ci è stato detto anche l'altra sera, praticamente stanno lavorando con, spenderanno circa 2 milioni di euro, il prezzo di una rotatoria di qui sopra, per fare un capping, che sostanzialmente cementare e lasciare tutto là, anche se come dire, le perizie parlano chiaro, peraltro lì le cifre sarebbero... viaggiano su tutt'altre dimensioni, si parla di 165 milioni di euro per bonificare veramente, eliminare il materiale illecito. Diciamo illecito perché poi uno dice no, pericoloso, allora fai terrorismo. Diciamo illecito, però insomma ci siamo capiti. Poi nel libro noi siamo abbastanza chiari, facciamo nomi e cognomi delle persone, ci sono intercettazioni... che a noi la prima volta che le abbiamo lette ci ha fatto venire un po' la pelle d'oca. Dopodiché, ad un certo punto, noi da giornalisti, come dire, sappiamo o cerchiamo di, come dire, andare a fare slalom o doppio slalom fra i paletti delle querele che sono a destra e a sinistra. Quindi noi ci siamo blindati, ma chi vuole capire anche fra le righe può capire. Prego. Quella mole di rifiuto proviene soltanto dalla acciaieria? No, sono l'elenco giusto e preciso che sono, comunque sono sostanze provenienti e dall'acciaieria, ma anche da acciaierie e cartiere della provincia, ma anche da fuori. E tenga conto che sono stati conferiti, parlo di Sardegna in questo caso, anche materiali provenienti da amministrazioni comunali, frutto di scavo. Quindi, come dire, poi il comune, per carità, dice: io l'ho consegnata a te, vettore, sei tu che ti occupi dello smaltimento ad occupartene. Uno può rispondere così, infatti non è che i comuni o le amministrazioni comunali sono state messe sotto inchiesta. Però, come dire, questo per dare l'idea di com'è la situazione. Mentre Jacopo cerca il dato preciso, posso dirvi un'altra cosa che a noi personalmente ha fatto molta impressione, perché poi il Trentino è piccolo e grande allo stesso tempo, siamo quattro gatti, però diciamo anche a livello di presenze montane, insomma, la superficie diventa grande, e qualche trentino non abita in Valsugana potrebbe pensare, secondo me qualcuno l'ha pensato, ma chi se ne frega, insomma la Valsugana se la siamo giocata, vabbè, è andata così. Dopodiché a queste persone che magari lo pensano e non te lo dicono o te lo fanno capire, noi diciamo sempre: sì, se voi pensate di essere al sicuro, secondo noi vi sbagliate, perché per esempio anche nel libro si parla dell'ecoterra, di questa terra miscelata, ma in realtà nel libro, nell'inchiesta, viene spiegato molto chiaramente, miscelata con sostanze tossiche, con sostanze di provenienza industriale. Non sapete se ce l'avete sotto casa, io abito in una casa di nuova costruzione, non lo so cosa c'è sotto il prato di casa mia, per quanto ne so io, sotto non ci sono i detriti della casa vicina o della demolizione di qualcosa, il laterizio e basta, può esserci questa sostanza, non lo saprò mai, mentre, come dire, perché poi questa terra miscelata veniva sostanzialmente messa nelle zone di bonifica, ma anche come dire, in terreni privati, perché era, come dire, anche merce che aveva un mercato e che quindi veniva distribuita. Hai trovato? Sì. Ok, no, perché stavo tirando, dico. No, credo che parlavi. Veramente sta terra. Rapidissimo. Dice che nell'anno 2007 si registra un incremento dei quantitativi delle scorie, questo era Monte Zarcona, non segno. Si registra un incremento dei quantitativi delle scorie non trattate provenienti da più insediamenti metallurgici: Acciaieria Valbruna, Alfacciai, Italfond, Marcegaglia, Acciaieria Valsugana, Riva Acciaio. Scorie di fusione provenienti dalle fonderie d'Allicani, fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio, scarti di fibre, fanghi contenenti fibre, prodotti di rivestimento dei processi di separazione meccanica provenienti dalle cartiere, compost fuori specifica proveniente dalla Trentino Recycling, anche da casa nostra ci riportavamo. Rifiuti di estrazione dei minerali, che altro? Qui c'è un'altra cosa, fanghi contenenti stirene conferiti dalla società di gestione dei rifiuti denominata Cooperativa Servizi Ecologici Dasti. Sì, insomma, la lista è lunga, in più ci sono, soprattutto a Sardegna, che è il posto di cui parlavamo prima, questi sversamenti da parte di realtà locali, di comuni, quindi rifiuti della polizia strada, per esempio, banalmente, ma anche altre cose, per esempio beton asfalti SRL che porta lì dei residui, insomma, Ravanelli, che è una società cooperativa servizi ecologici, la Colombini SPA, il Centro Pietra, la cooperativa Lagoraglio, l'associazione artigiani Misconel, ex De Manicor Oberoser SPA, ex Star Oil, insomma la lista è lunghissima, poi queste imprese qua non sono mica state indagate. C'è una sola condanna? Allo Stato abbiamo una condanna in primo grado in appello per il presidente della Valsugana di Pistri SRL che gestiva il sito di Roncegno ed era presidente del CDA di Sativa, che era la società che gestiva Sardegna. Questa persona è stata condannata in primo grado, in appello la condanna è stata, come dire, appesantita, adesso vedremo la Cassazione, e lavora ancora. È anche bene da quello che sappiamo. E quando uno è bravo. È bravo, d'altra parte bravissimo. E poi c'è il capitolo acciaieria, poi però ci sono poi, diciamo, tutti i suoi collaboratori, si parla grosso modo di una decina di persone che hanno tutti scelto di uscire con un patteggiamento dal procedimento pagando. Per quanto riguarda invece l'acciaieria, siamo arrivati anche lì a delle oblazioni, quindi hanno pagato sostanzialmente delle multe, Per quanto riguarda invece Ecoterra, anche lì sono stati patteggiamenti, cioè tutti hanno fatto, nessuno è uscito con una soluzione. C'è stata una sola cosa, che è stata un'archiviazione per i quattro funzionari dell'app, per cui appunto non si è riuscito a dimostrare il dolo, cioè si presume che se io funzionario dell'app faccio qualcosa per te, acciaieria, che non dovrei fare, tu mi dai qualcosa in cambio. Venduta dalla provincia come una soluzione. Esattamente, con tanto di comunicato. Se io, come dire, indagando non riesco a trovare, come dire, dei soldi o un favore, è difficile che dimostrare che tu l'hai fatto perché ti hanno pagato o perché c'era dietro qualcosa, magari lo hai fatto semplicemente perché eri in buona fede. Ma a noi piace pensare così. Ma colpa in questo caso. Prego? Ci vuole il dolo, in questo caso ci vuole colpa. Sì, sì. Esatto. Cioè, se uno non fa bene il suo lavoro di analisi delle cose, che non è... No, per la negligenza non si risponde. Infatti volevo chiedere più due o tre cose. Questo aspetto del, indagati solo quelli dell'ARPA, quindi nessun altro funzionario pubblico è stato coinvolto. Quelli dell'ARPA solo per la fase dei controlli. Solo per la fase dei controlli, tra l'altro solo per la fase dei controlli relativi all'acciaieria. Acciaieria, quindi dal punto di vista proprio del omissivo. Esattamente. E l'hanno archiviato in fase di indagine. È stato archiviato in fase di indagine prima della richiesta, ancora prima della richiesta di giudizio. Non sono stati archiviati. Esattamente. Sono stati archiviati perché appunto, come si diceva, non si è riusciti a dimostrare il dolo. E poi la cosa curiosa è che appunto, come dicevo all'inizio, due di queste persone sono state messe poi nel nucleo di valutazione per vedere. Ecco, l'altra cosa che volevo chiedere era le imputazioni che riguardava l'unico soggetto che è stato condannato erano quindi relative esclusivamente alla traffico illecito di rifiuti per Cavazzacon e Sardegna. E basta. Sì. Quindi non avevano raccolto sufficienti elementi per trovare un nesso causale tra i rifiuti e le patologie. Diciamo che da quel punto di vista si sono fermati anche perché il reato con cui puoi procedere per trovare il nesso causale è il danno ambientale, no? Perché poi il danno ambientale è una cosa che non va in prescrizione e ti permette anche a 20-30 anni di distanza poi di perseguirlo. Il problema è dimostrarlo. Quindi su quello non vanno indagati. Su quello sappiamo anche che poi si sono fermati, perché poi c'è anche un aspetto relativo al perché uno deve fare un lavoro del genere. Magari gli piace. O magari lo fa perché ci guadagna un bel po' di soldi. Ecco, la terza questione era quella della si diceva prima, la provincia ha avuto e continua a avere questo ruolo di difesa d'ufficio, diciamo, dello status quo, no? E ci sono i comitati, associazioni, eccetera, che invece si sono mossi in direzione diversa, anche con riscontri peritali difformi, avevamo detto prima, no? Sì. Ecco, quello che dicevo, non c'è nessun, a parte la provincia con questo ruolo, nessun ente locale che si è costituito parte civile in quel giudizio con una tesi. Il paradosso è che la provincia stessa si è costituita parte civile in quei procedimenti. Anche la provincia. Cioè la provincia da una parte era quella che dava, come dire, come, quantomeno come longa manus, se non come istituzione in prima persona, perché magari era il comune, è quella che da una parte dava da lavorare a queste persone e poi dall'altra si è costituita parte civile. Infatti il giudice in un passaggio della sentenza questa cosa la solleva e dice signori, ci state prendendo in giro, cioè, se questa è parte civile però senza portare un perito, sostanzialmente sì. Peraltro infatti il risarcimento a un certo punto per la provincia viene in qualche modo negato e invece il WWF il risarcimento lo prende, l'ordine dei chimici lo prende il risarcimento. Beh, il giudice poi ha nominato un perito super parte, certo, il giudice, il GUP, che è Carlo Ancona, nomina due periti super parte, neanche uno, che fanno gli esami e le analisi in contraddittorio, quindi utilizzando dati che erano stati ottenuti in confronto con anche i periti della difesa, e quindi insomma, quei dati lì poi sono quelli che sono stati considerati validi a dibattimento e poi validi nei successivi gradi di giudizio. Considerate che per esempio i periti di cui stiamo parlando non sono trentini o veneti. Uno è Alessandro Iacucci, che è uno dei massimi esperti a livello nazionale e sta a Roma, e gli altri due sono Sana e Carocci, che anche loro non sono trentini e vengono da tutt'altra realtà, e hanno detto chiaramente qual è la situazione a Montezaccon, qual è la situazione a Sardegna. Giacomin, che è invece il perito per le acciaierie, dice chiaramente che ci sono stati dei problemi non solo di controllo ma di sforamenti, di numerosi sforamenti sulle emissioni, ha anche sollevato il problema della sicurezza interna, l'acciaieria, Poi sull'acciaieria si potrebbe dire, si possono dire tante cose sul fatto che quando si facevano i controlli, io vengo a controllarti, però ti dico guarda che domani vengo a farti un controllo. E lì ci sono le telefonate, ci sono le email. E lì ci sono le email, però non si riesce a dimostrare il dono, no? A Sardegna, perché c'è anche da dire una cosa. Non è che sono tutti mele marce, nella forestale trentina, negli apparati di controllo, nella stessa app, ci sono delle persone che sanno fare molto bene il loro lavoro e tengono all'ambiente, quindi non sono persone sospettabili di essere in qualche modo compromesse, disoneste assolutamente, o incapaci, ancora peggio. Però il problema è che, per esempio nel caso del Comune di Trento, a Sardegna i tecnici del Comune venivano in qualche modo presi in giro, perché quando andavano a fare i campionamenti, chi gestiva il sito aveva preparato una mappa colorata con delle zone dove si potevano fare i campionamenti e altre zone dove non si potevano fare i campionamenti. Allora io, istituzione pubblica, quando vado in un sito per controllare, controllo dove voglio io, non dove mi dice di controllare il controllato. Peraltro, per quanto riguarda i controlli con l'indicazione c'era l'amministrazione, nel caso dell'acciaieria per esempio, no? Io ho partecipato ad una serata di fuoco al palazzetto dello sport di Borgo Valsugana, dove c'era da una parte la gente del posto arrabbiatissima, preoccupatissima con i comitati, e sul palco assieme al sindaco, che faceva un po' da moderatore, c'erano l'assessore all'ambiente Alberto Pacher, oggi presidente della provincia, e l'allora governatore, presidente della provincia, Lorenzo Dellai, oggi in Parlamento a Roma con i Montiani. E la cosa curiosa è che, e dico curiosa fra due belle virgolette belle grandi, è che in un momento in cui abbiamo un'indagine in corso sulla presenza delle diossine e delle sostanze potenzialmente cancerogene nel terreno, di cui si sta occupando la Procura della Repubblica di Trento con il Corpo Forestale dello Stato, con i loro consulenti, abbiamo una provincia che fa le analisi e fa i vari campionamenti, li fa qui e qui. E io mi sono permesso di chiedere all'assessore all'ambiente Pacher, ho detto, scusate, ma che senso ha fare questa operazione adesso? Cioè, lasciate che lavori la procura, che non è mondo, voi fate l'esecutivo, loro fanno il giudiziario, tenete separate le cose, è una cosa abbastanza elementare. Nel senso che lasciate che facciano loro e non si pone il problema, poi vedremo cosa emerge. E la risposta è stata, ma no, noi dobbiamo dare una risposta alla popolazione che chiede risposte in tempi rapidi, e quindi noi abbiamo fatto il campionamento in questo punto, in questo punto, in questo punto, e la procura non può semplicemente andare dove siamo andati noi e fare il prelievo in questo punto, in questo punto, in questo punto. Quindi c'è la provincia che decide dove la procura deve andare a intervenire, che se non facesse ridere, se non facesse piangere, farebbe ridere, insomma, come cosa. Però questo è un po' anche lo stile. Nel libro raccontiamo anche un po' proprio di questo stile, di questo modo un po' allegro, diciamo. Noi sappiamo per esempio che il Corpo Forestale dello Stato nei mesi caldi dell'inchiesta ha ricevuto fortissime pressioni attraverso il Ministero dell'Ambiente per allentare le inchieste, e queste pressioni dal Ministero dell'Ambiente da chi sono arrivate? Chi è che ha chiamato a Roma per dire di lasciare perdere questa cosa? Scusate, io sono arrivata tardi, per cui non ho sentito tutta la prima parte, ma nel momento in cui sento queste cose e rifiuti tossici, ecco mafie, non possono più entrare in La casa editrice è di Reggio Calabria, specializzati in ecomafie. Non diciamo altro. Per dare un po', come dire, un alone di speranza, si può dire questo, che qualcosina è stato fatto dopo. È una cosa che ci ha anche dato soddisfazione, che fa un po' ridere in realtà, perché il libro è stato ignorato sostanzialmente dalla classe politica. È stato silenziato. Silenziato, più che ignorato, perché sappiamo che l'hanno letto e che è piaciuto moltissimo. Però per esempio hanno commissionato, pagando, un rapporto a Transcrime, che è un comitato interuniversitario che si occupa di criminalità, di rapporti di analizzare le dinamiche criminali. Hanno pagato questi qui di Transcrime, che sono con base a Milano, per fare un rapporto sulla correlazione fra il traffico di rifiuti e la criminalità organizzata. Nel rapporto viene citato il nostro libro, Quindi da una parte la provincia ignora completamente quello che succede e se la prende coi comitati e cerca di buttare acqua sul fuoco tranquillizzando, dall'altra tiri fuori dei soldi pubblici per avere dei risultati su un rapporto che li sapevi già quei risultati lì, perché poi le inchieste sono note. Quindi qualcosina si sta facendo, nel senso che anche il fatto che la provincia abbia speso dei soldi per cercare di indagare, no, l'ambito dei rifiuti è una cosa che comunque è positiva di sicuro. Certo si può fare di più, si può fare di più. Questo rapporto dice quali sono le zone grigie proprio, il termine che usano è questo. Peraltro, ecco mafie, no? e strumenti per difenderci, per controllare. Quando è uscito il libro, noi siamo stati chiamati, è uscito il libro, insomma ha fatto anche un bel po' di rumore perché nessuno si aspettava una cosa di questo tipo, noi l'abbiamo tenuto veramente segreto fino all'ultimo perché non si sapeva, insomma intanto lo sapevano... Non sai di chi ti puoi fidare. Esatto, lo sapevamo noi, lo sapeva mia moglie, lo sapeva la sua ragazza, insomma lo sapeva veramente in pochi. Insomma esce il libro... tempo materiale anche per la gente per leggere, arriva una telefonata di un forestale provinciale e dice, beh, si presenta, insomma, quando ha ricevuto la telefonata ha pensato, cavoli, tiri sulle antenne e dici, sono rogne, no? Perché dici, sapevamo quello che avevamo scritto, quindi in qualche modo uno va, tira sulle antenne e va un po' in allerta. Invece dall'altra parte del telefono senti una persona che ti dice... grandi silenzi, celentaniani proprio, tutto vero. Allora, se è tutto vero. Però, come dire, non siamo tutti uguali, insomma, della serie, noi il nostro lavoro cerchiamo di farlo, se poi sopra, non l'ho detto con queste parole, però il senso era abbastanza chiaro, se sopra c'è un tetto di cristallo oltre il quale non puoi andare, è anche difficile fare il tuo lavoro. Certo, se poi non ti metto nella condizione, non crei un nucleo investigativo, anziché assumere i chimici, assumi gli ingegneri ambientali, grande rispetto per gli ingegneri ambientali, abbiamo anche l'università di ingegneria nota, però se non strutturi, se non dai benzina al motore, poi non stupiamoci che le cose accadano. Per cui questo ispettore forestale ha, come dire, ha telefonato dicendo ci tengo a dirvi che c'è anche chi lavora in un certo modo. Poi peraltro è venuto lui, anche un suo collega, ad un paio di presentazioni. Come dire, la parte sana ci sarebbe, fatto sta, e questa è cronaca giudiziaria, e questo è innegabile, quello che è successo, poi possiamo star qua a raccontarci. Io volevo dire una cosa su questo, giusto per rendere l'idea un po' anche di come... questo loro lavoro si inserisca nel contesto complessivo degli equilibri politici del Trentino, e partirei dal dire appunto che forse il rapporto un po' di fiducia con le istituzioni e con le agenzie ambientali si è incrinato fin in modo particolare da tutta la vicenda che riguardava il progetto dell'inceneritore, che è stata una grande operazione di occultamento, diciamo, della realtà prospettica, perché la provincia aveva investito moltissimo in questo progetto vecchio, nato già negli anni 80 e assolutamente fuori tempo, ma che aveva fino in fondo cercato di realizzare, trovando una forte opposizione auto-organizzata più che istituzionalizzata anche nel mondo dell'ambientalismo, ed è stato un po' il momento, un po' di passaggio che ha segnato, secondo me, un po' uno spartiacque nel rapporto fiduciario di molti cittadini con le istituzioni della provincia autonoma a Trento, perché la provincia sembrava veramente andare a testa bassa, al di là di qualunque raziocinio, per imporre un progetto che, secondo chi si opponeva, aveva fini più economici, finanziari, per creare una macchina, diciamo, da denaro per una serie di interessi locali e non solo locali, perché la cosa nasceva con quella che oggi si chiama, che mi pare A2A di Lombarda, all'epoca si chiamava ASM, ma inceneritore di Brescia e quant'altro, ed era un progetto che aveva, diciamo, una sua perversa sostenibilità economica grazie ai contributi, ai noti incentivi sulle assimilabili alle rinnovabili che paghiamo in bolletta, E diciamo, chi ha cercato per anni e anni e anni di scoperchiare questa verità è stato ostacolato in tutti i modi dalle e a tutti i livelli, anche quelli forse meno, come dire, sospettabili, anche della rappresentanza politica, sono stati isolati i comitati, anche nell'associazionismo ambientalista ci sono state alcune associazioni che hanno comunque fatto la loro parte, che erano presenti come WWF Italia Nostra, e altre che invece stranamente non si sentivano, e qui questo ha messo in luce in modo eclatante un fenomeno che riguarda anche Bolzano, che è il rapporto spesso, diciamo, l'arma a doppio taglio dell'essere finanziati, diciamo, da un ente pubblico così vicino e che ha tanta disponibilità economica. Quando tu sei una, diciamo, una realtà organizzata che ha uno scopo nella vita, rischi poi di dimenticarlo, perché diciamo, la facile possibilità di organizzare, di fare, grazie ai denari pubblici, rischia veramente di farti perdere identità, cosa che mi è sembrata accadere in quella circostanza per quanto riguarda l'inceneritore. Anche personalmente, essendomi occupato a lungo, ho avuto occasione di confrontarmi con esponenti di questa parte dell'associazionismo che difendevano l'indifendibile ed erano tendenzialmente allineati sulle posizioni della provincia. Scusa, ti annacquano dandoti soldi? Sì, diciamo che il risultato spesso è sembrato essere proprio questo. Ti annacquano nel senso che tu non ti occupi di certe cose perché dici, ma io faccio altro, e quindi però insomma, non cogliere, diciamo, il peso specifico di un progetto di un inceneritore da costruire nella città di Trento, mentre parallelamente si avvia un processo di radicale revisione del ciclo dei rifiuti per passare rapidamente al porta a porta, alla raccolta differenziata spinta, eccetera, è una cosa, un controsenso talmente enorme che era veramente singolare che delle realtà associative di stampo ecologista non lo notassero e preferissero occuparsi del gufo reale sul bondone, insomma. Comunque, va bene. Volevo solo dire che secondo me questo è stato un passaggio e si è vista veramente, come dire, si è visto un aspetto, perché poi anche lì ci sono valanghe di aneddotica, diciamo, anche inconfessabile, sulle relazioni tra la provincia e gli altri enti e i pochi comuni e sindaci che avevano cercato di mettersi di traverso a questo progetto, e si è visto, diciamo, un volto di quello che qualcuno ama definire il sistema dell'AI, cioè questa lunga era, diciamo, non lunga quanto quella di Durnwalder in Alto Adige, che è lì dal marzo dell'89, dell'AI è stato un po' meno presidente, 14 anni mi sembra, comunque ha costruito un suo sistema anche grazie, appunto, dei rapporti fiduciari sia con alcuni politici sia con una parte della tecnocrazia, che appunto è stato definito un po' il sistema dell'AI, un po', diciamo, molto decisionista e che quando decide una roba, appunto, vuole portarla in fondo. La magna d'oro. Voleva fare così anche con, e costruendo, diciamo, un sistema, appunto, di un equilibrio di consenso, grazie, appunto, alla disponibilità finanziaria. E quindi non apriamo tutto questo capitolo, però è per dire che sull'inceneritore è andato avanti a testa bassa dell'AI, fondamentalmente con i suoi, facendo, appunto, in modo che ci fosse una voce univoca dalla provincia, nessuno che aveva niente da dire. Nella politica, ripeto, sostanzialmente non c'era nessuna voce dissonante, salvo qualche sindaco che, appunto, spesso si trovava forse in imbarazzo rispetto a qualche progetto che voleva portare a casa e a che cosa dire sull'inceneritore. E fatto sta che l'opposizione è rimasta in mano sostanzialmente a dei comitati di cittadini, a un'associazione, NIMBY Trentino in particolare, e a qualche comitato locale, che è emblematico, appunto, di che cosa può succedere in un sistema come questo, con una gestione di questo tipo del potere e molta disponibilità sia dal punto di vista legislativo, sia amministrativo, sia finanziario. Ed è stato il passaggio che ha incrinato, secondo me, i rapporti. Poi è scoppiata questa cosa della Valsugana, un nuovo caso del genere, che secondo me ci aiuta un po' a interrogarci anche sul profilo, diciamo così, della teoria politica, perché ci pone di fronte a un caso che mostra le ambiguità di tutte le teorie che magari molti di noi sono, diciamo, a cui molti di noi sono affezionati, della democrazia di base della comunità autogestita, insomma, nelle sue varie declinazioni del federalismo, chiamatela come volete, e quindi della vicinanza tra chi diciamo, gestisce il potere e chi controlla questa gestione. E in questo caso è emerso appunto l'aspetto che ha fatto andare su tutte le furie appunto dell'AIE eccetera, della forse necessità che ci sia, che si ragioni su quali siano le architetture dei controlli, cioè che quando c'è una ampia autonomia locale dal punto di vista legislativo, amministrativo e finanziario, non sia lì però che deve esserci l'epicentro del controllore, ma che debba essere spostato. Appunto, che in questo caso, infatti, la cosa che ha fatto andare su tutte le furie dell'AI, che si è innervosito abbastanza, era proprio il passaggio per cui tutta questa cosa dello scandalo della Valsugana, le discariche, poi c'è tutto il capitolo delle acciaierie, magari poi ci raccontate che sbocco ha avuto, dove stanno andando queste acciaierie e come si sono comportati anche lì, diciamo, i politici della provincia autonoma rispetto a quella presenza in quel luogo di questo tipo di industria. Il fatto sta che ha dato veramente fastidio che siano venuti i forestali dalla provincia di Vicenza, dove c'è appunto un nucleo specializzato in crimini ambientali, per indagare crimini ambientali. È stato quello che veramente ha dato molto fastidio. Perché? Cioè, questa domanda, perché? E perché non avrebbero mai probabilmente sollevata la questione in questi termini? Si sarebbe forse cercato un percorso concertativo per uscire in qualche modo da una situazione se l'allarme sociale fosse aumentato a dismisura in Valsugana? Perché non sarebbe mai uscito nulla dai palazzi della provincia? Lì c'è un altro aspetto che voglio porre alla vostra attenzione, dopodiché chiudo, che è da un lato quello che dicevo dei controlli, dall'altro quello di una vicinanza pericolosissima tra gli apparati tecnocratici e quelli del decisore politico. Aggiungo, giusto per darvi l'idea, loro hanno accennato a quello che è stato il rapporto tra politici, appa e realtà della vita umana e non umana, e aggiungo per esempio che ci sono dei capitoli in Trentino critici che riguardano la gestione della fauna. C'è il progetto Life Ursus, che forse avrete sentito menzionare, degli orsi del Trentino, che stanno sul Brenta, si stanno riproducendo, va avanti da una dozzina d'anni, ogni tanto qualcuno viene da queste parti, di questi orsi, e anche in quel caso è un progetto che ha mostrato una serie di criticità ed è stato in parte boicottato dal livello politico, perché non tutti i politici che hanno già avuto responsabilità amministrative in provincia di Trento piace l'idea che questi orsi, che creano un certo allarme in alcune valli perché mangiano le galline, mangiano le pecore eccetera, non a tutti piace questo progetto. Questo per dare, diciamo, l'idea di come si possono fare delle scelte di campo, e poi si possa notare che, guarda caso, in alcuni risvolti delle scelte di questi apparati ci sono posizioni che rispecchiano quelle del decisore politico. Ah, io avevo letto ancora anni fa che anche in Val di Non la popolazione, che era preoccupata per i pesticidi dei veleti, ha dovuto prendersi dei ricercatori privati per poter avere delle analisi. Si hanno fatto un'indagine. Quello che c'era sui davanzali delle case, sugli orticelli intorno a... Anche sulle urine. Cose terribili. E penso sappiate che questo grande nome, così, che nella televisione sembra il simbolo della purezza, cioè la Melinda, è sbarcata anche in questa povera vallata, molto fragile anche economicamente, eccetera, no? E lì abbiamo visto sui giornali, insomma, hanno preso una zona delle più belle, dove c'è ancora la campagna tradizionale con tutta la sua varietà, in comune di Cesio Maggiore, qui tra Belluno e Feltre. Hanno fatto un death river spaventoso di bancamenti, di cose, per mettere questa selva di paletti di cemento, i meli girati in certo modo proprio, perché l'industria fa così, no? Poi abbiamo visto sui giornali locali, dopo, le foto dei pesci morti sui torrentelli che scendono perché è un terreno che va degradando, Augusto, tu che sei uno degli esponenti, cosa ne sappiamo noi di come vanno le cose? Ah, perché per non farci mancare, per non farci mancare niente, poi, per non farci mancare niente. Ma non è una melinda, come restano un visitante. Per non farci mancare niente, in questa vallata sono arrivate anche quelle di contesti che stanno a sud, cioè quelli del Prosecco, che si sono presi un terreno intorno a una villa veneta antica, hanno fatto un vigneto, hanno fatto un disastro, quindi qui siamo esposti ai 420, adesso non so, la situazione è come ce l'avete descritta voi, Zenone, riguardo al ruolo delle istituzioni politiche, le istituzioni del loro controllare, eccetera. Allora, padroni a casa nostra non è una garanzia, no? Non siamo padroni neanche di casa nostra, cosa facciamo? Quindi dal punto di vista? Padroni, il problema, cioè il pericolo è reale, perché siamo vicini di casa, tra l'altro io lavoro proprio in Sugana. E parlavano anche di mettere un inceneritore al confine tempo fa, quindi ecco, cioè, ci sono un po' di cose, anche perché i terreni ormai in Trentino sono molto cari e difficili da trovare, per di più vengono fuori queste inchieste, quindi forse si cerca di portare altrove. Ma il paradosso è che una decina d'anni fa il nostro giornale aveva pubblicato una pagina, una lunga intervista con un coltivatore, orticoltore della Valle di Non, che si era biologico, che si era trasferito proprio a Cesio Maggiore. Lo conosci, ecco, perché in Valle di Non non riusciva, credo, neanche dal punto di vista formale a farsi certificare per le distanze una coltivazione biologica di mele. Ed era venuto lì, quindi è perseguitato, perché invece si sta arrivando. Cioè, c'è un piano proprio per seguirlo. Perché fare il tela ha quel Gosetti perché è un Gosetti anche lui. Quindi essere. Simone. Come esperto ha lasciato buon terreno, quindi la Melinda l'ha fatta per seguirlo. Esatto. Ecco cosa è dovuto il successo a seguire questi vecchi agricoltori. Due domande, posso? Certo. Allora, una è quanto è frutto anche di una vostra indagine sul libro, quanto ha dato seguito a quello che eventualmente avete indagato poi dal punto di vista giudiziario, oppure quanto invece è frutto solo di una raccolta di questioni, di dati, di notizie. E un'altra cosa che vi chiedo è: ha avuto influenza positiva a questo punto la vicinanza della Val Sugana con il Veneto, oppure è del tutto ininfluente questo aspetto territoriale? Qual è? Rispondete. La prima, dai, poi rispondo. Direi che le inchieste giudiziarie hanno avuto, direi, un 70% le inchieste e un 30% roba nostra, perché comunque, come dicevo all'inizio, le inchieste ti permettono, sono un grimaldello che ti permette poi di entrare in tutte le cose che vi abbiamo raccontato, cioè in certe dinamiche della politica. Poi le inchieste giudiziarie da sole non bastavano, e quindi siamo andati a intervistare persone, abbiamo parlato con gli inquirenti, siamo andati in Veneto diverse volte, siamo andati in Val Sugana diverse volte, ci siamo letti anche, pur essendo dei profani assoluti di chimica, io un po' di chimica l'avevo fatta alle superiori, ci siamo letti anche delle cose tecniche per capire meglio l'argomento, per cercare di renderlo più commestibile, perché comunque parlare di analisi, parlare di sostanze, di codici CER, di codici europei, insomma, fai questo a stufarla una persona, insomma. La uccidi dopo due pagine. Dopo due pagine, questo, insomma, è già. E quindi, diciamo, insomma, per essere equi, 60-40, 70-30, nel senso, sì, comunque le inchieste sono, lo dice Sabelli nella prefazione, il nucleo del libro. Poi quello che c'è intorno. Nel libro ci sono anche molte parti inedite riguardanti anche gli atti giudiziari, nel senso che sui giornali, ma anche onestamente per mancanza di tempo, non necessariamente per mancanza di volontà, Dio non voglia, e non di tempo e di spazio sul giornale, cioè la pagina quella è, non è che puoi tirarla la pagina, e se tu hai 60 righe, 70 righe, 80 righe, se ti va bene, comunque lì devi condensare tutto. Quindi noi all'interno abbiamo intercettazioni, elementi in più, elementi nuovi che permettono, secondo noi, di decodificare, di capire meglio che cosa hanno fatto. Poi, per quanto riguarda la vicinanza col Veneto, probabilmente sì, nel senso che forse questo ha aiutato, il fatto che, beh, insomma, c'era l'ispettore che residente in Valsugana ma che lavorava in Veneto, quindi questo è tutto il gancio. Ho fatto questa domanda perché molti comitati dell'Alto Vicentino, del Bellunese, c'è stata una relazione notevole tra i comitati di queste zone con il comitato di Borgo per quanto riguarda l'acciaieria, ma anche per quanto riguarda il ricevitore di Lopodetti. E quindi mi chiedono quanta contaminazione positiva, se è stata positiva, c'è stata, che poi ha portato. Sui comitati sicuramente, allora, questo è innanzitutto quello che dicevo prima dell'ispettore, poi sui comitati secondo me c'è stata nella misura in cui i comitati, le persone dentro i comitati si sono documentate su quello che stava succedendo fuori e quindi poi con internet, le email, oggi ormai siamo veramente, cioè, i confini sono ridicoli in sé, nel senso che siamo tutti nella stessa barca. E la casa editrice di Reggio Calabria lo conferma. E quindi sicuramente c'è stato questo legame. Per quanto riguarda invece le reazioni di cui mi dicevi, cioè, se c'è stato, come dire, una risposta, uno scatto da risposta, lo dicevo prima Jacopo, sul piano politico il silenzio. Invece, salvo Roncegno, ci sono state, come dire, c'è la reazione molto positiva della gente, nel senso che, beh, a Borgo è stato una bomba, nel senso che c'era parecchia gente, ma anche nelle altre presentazioni che noi facciamo, e dove, come dicevo prima, ci invitano senza che noi andiamo a proporci, la reazione c'è, il libro sta andando molto bene, e non a caso forse adesso c'è anche un gruppo su Facebook e c'è stata un botta risposta a far di noi, e sto gruppo, come si chiamano? Acciaieria da rivalutare, tra l'altro ci tengo a dirlo perché in questo gruppo Facebook che si chiama Acciaieria da rivalutare c'è il presidente del consiglio provinciale di Trento, l'assessore all'industria, un consigliere provinciale del PD, un consigliere comunale di Borgo, il sindaco. Insomma, guarda caso, non più tardi dell'altro ieri ci hanno attaccati su questo, dopodiché noi gli ha risposto anche con tre righe della serie: documentatevi, sì, prima di parlare, gettare fango sugli inquirenti, che pare essere sport nazionale alquanto praticato anche nel magico Trentino. Quindi su questo versante, come dire, la risposta c'è. E viceversa, all'inizio quanto hanno pesato le comunità locali, i comitati nel far partire l'indagine? Sono stati fondamentali, che se non ci fossero stati loro... Cioè esposti, denunce, raccolta di documentazione... Non sarebbe successo niente. Non sarebbe successo nulla. Lo diceva niente. Zenone giustamente prima, se non si fosse arrivate alle inchieste ci sarebbe voluta una mobilitazione veramente massiccia e compatta, che è difficilissimo, della popolazione per riuscire ad arrivare a un minimo risultato. E la cosa, diciamo, positiva è stata che queste persone sono riuscite, dopo aver, come dire, fatto il giro delle sette chiese, ad arrivare a questo forestale dello Stato che viene in Valsugana, e per fortuna poi lì il tutto è partito. Non ci fossero stati i comitati. Ah, sono stati i comitati sono stati i cittadini a sensibilizzare, si sono poi creati gruppi ulteriori con diversi Rivoli, obiettivi, esatto, i medici per l'ambiente, i barbieri sleali, ci sono state le mamme bioniche, cioè, i cortei lumaca, la fantasia, i cortei lumaca con i trattori dalla Valsugana a Trento, le manifestazioni sotto il palazzo della provincia con le ceste con i prodotti della Valsugana, che erano ironicamente vasetti con dentro scorie, l'acqua del Brenta contaminata, insomma, sotto il palazzo della provincia. La cosa che poi è successa, purtroppo, ma questo fa parte probabilmente anche del gioco, con il tempo, se l'attenzione cala, le cose cambiano e poi, insomma, la gente ha idee diverse, si mette magari a discutere, a litigare, ci sono delle scissioni, lo dicevamo prima, Borgo Valsugana è un po' spaccato, cioè da una parte ci sono quelli che in acciaieria ci lavorano e quindi hanno il loro reddito che deriva dall'acciaieria, e quelli che invece l'acciaieria non la vogliono perché sono 30 anni che... E a livello amministrativo, dal punto di vista delle elezioni comunali, così c'è stata... Beh, a livello amministrativo a Roncegno è saltata una giunta, ma alle elezioni proprio, cioè questi sono ripresentati e la gente, per fortuna, io non dovrei commentarli questi, ma per fortuna non li ha più votati, quindi qualcosa è servito a Roncegno. A Borgo più o meno c'è stata la stessa cosa, è sempre stato un comune di centrosinistra, perché prima c'era il PD, il sindaco attuale del PDL, e ha cavalcato un po' questa cosa dell'acciaieria, anche se in modo un po' timido a volte. Sì, salvo poi fare delle retromarce. Però è comunque una persona che ha detto anche delle cose abbastanza forti, inimicandosi il potere provinciale, il che non è una cosa scontata, perché è la provincia che passa i soldi per fare i servizi ai comuni e alle comunità. Sì, diciamo che i sindaci lavorano anche molto di bilancino, cioè faccio un passo avanti, ne faccio due indietro, perché poi sai, non ti finanzio il palazzetto dello sport, la piscina rimane lì da costruire, quindi c'è anche un po' il giochino. Parlando di giochino, e parlava giustamente Jacopo del discorso chi si lavora nell'acciaieria, il periodo non è dei migliori, perché il giochino lavoro contro salute e ambiente già lo si faceva prima e adesso ha un suo peso che forse qualche tempo fa uno diceva vabbè, cosa me ne frega, vado a cercarlo da un'altra parte. E quindi il presidente del consiglio provinciale, che fa parte del gruppo Facebook di cui si parlava, già segretario della CGIL del Trentino, e in quella famosa serata di confronto con la popolazione della Val Sugana di cui vi parlavamo prima, ha detto no, ma io insomma sono disposto ad andare sui tetti a difendere, sul tetto dell'acciaieria a difendere... No, a un Trentino di camerieri. Sì, esatto, un Trentino di camerieri, rivolgendosi a quelli che dicevano vabbè, ma è il turismo il futuro del Trentino, non è l'industria pesante, e questa è stata la risposta. Quindi vado sui tetti a difendere gli operai. Ce n'era un altro, se vi ricordate, a livello nazionale, che andava sui tetti per difendere i ricercatori, non ha fatto una gran fine quello. E sfortuna ha voluto che proprio ad un centimetro da lui sedesse una signora anziana, Ferrai mi pare si chiami, noi nel libro la citiamo Ferrai, una commerciante in pensione anziana, che si è alzata a un certo punto e ha detto ma scusate, l'unica cosa che avevamo a disposizione qui nella povera Valsugana era l'aria pura, se avete tolto pure quella io vi chiedo una promessa, toglieteci l'acciaieria, ridateci la nostra aria. Ovviamente la risposta è stata il niente, insomma, però questo per spiegare, magari per mettere una ciliegina sulla torta e oscurare quel barlume di cui parlavo prima e collegarmi a quello che diceva Zenone sul potere economico, sulle relazioni fra la tecnocrazia, il potere politico, sul potere legislativo che abbiamo in provincia di Trento, perché quello è fondamentale. Con le leggi puoi fare molto di più che con i soldi, ci sono, con le parole cambi le regole. Allora nel 2011, seduta di finanziaria in consiglio provinciale, a finanziaria, se lo sapete, in generale succede a livello nazionale, succede nei consigli regionali, succede da noi, è un provvedimento omnibus, cioè dove si infila dentro un po' di tutto, no? Ebbene, c'è questo avvocato che è uno degli avvocati che poi si è costituito come parte civile nei processi, il quale ha letto questa finanziaria e ha scoperto un codicillo a un certo punto, l'86 ter, mi sembra, quindi è andato anche a cercarselo, che è un codicillo grazie al quale la provincia poi è intervenuta per sanare delle situazioni tipo la discarica di Sardegna di cui parlava Andrea prima, quel documento con cui è arrivato sull'assessore. Magari ve lo leggo sto codicillo perché secondo me è interessante, e questo la dice lunga di che cosa si riesce a fare con la normativa dalla tua parte, no? E dice... praticamente l'avvocato dice che il senso è che i rifiuti illegalmente conferiti a Monte Zaccone e anche a Sardegna sostanzialmente restano dove sono grazie a questo codicillo inserito in finanziaria, che dice, ve lo leggo, perché indipendentemente dalle sanzioni penali e amministrative, cioè come dire che non ha importanza cosa dice un tribunale sostanzialmente, lo smaltimento di rifiuti non pericolosi, e lo decidono loro se sono pericolosi o meno, in difformità dall'autorizzazione dell'impianto prevista dalla normativa vigente, può essere regolarizzato sotto l'aspetto autorizzativo da parte dell'autorità competente, la provincia, se si verifica una delle seguenti condizioni, poi va avanti. Cioè, loro decidono che cosa è pericoloso, che cosa non è pericoloso, decidono che cosa può rimanere, che cosa non può rimanere, semplicemente infilando una cosetta in finanziaria votata alle 2 del mattino. Allora, se questa è la, come dire, la reazione della politica trentina ai casini ambientali che ci sono stati, ecco, insomma, è un po' preoccupante quantomeno. Io prima di fare, diciamo, il gran finale, che li vedrà impegnati nella veste di attori, questa è la sorpresina finale. No, volevo solo dire 30 secondi sta cosa, per tornare all'inceneritore e al ruolo dei comitati, che secondo me è importante dappertutto, è stato supplettivo rispetto al disastro istituzionale di questi decenni. E per fortuna che c'è stato in Trentino, per alcuni aspetti ancora più importante nelle aree appunto dove c'è un'alta concentrazione di potere locale, e sulla vicenda dell'inceneritore, grazie appunto ai comitati, in particolare NIMBY Trentino, contro tutto e contro tutti dal punto di vista istituzionale, ma producendo valanghe di materiale di altissimo livello scientifico, alla fine, probabilmente anche perché lo scenario degli incentivi a chi brucia rifiuti è diventato molto più incerto, il fatto sta che ormai la provincia sembra al momento essersene fatta una ragione e pare che sia possibile che questo progetto, perché hanno speso già valanghe di soldi appunto a livello preliminare di progetti, di valutazioni più o meno farlocche eccetera, non partirà mai concretamente, si spera, ed è questo veramente grazie, anche se non lo dirà mai nessuno, soprattutto dei politici che avrebbero dovuto aprire la bocca e non l'hanno aperta, pur essendo collocati per esempio nei Verdi e stando al governo della provincia autonoma, qualcuno forse un giorno dovrebbe dire grazie a qualcun altro. Questo per chiudere il capitolo inceneritore e comitati, e invece voi adesso ci fate ascoltare qualche pezzo di intercettazioni delle chicche. Sì, l'idea era di leggervi questo passaggio per darvi la misura dello stile, dello stile che c'è, perché al di là delle inchieste giudiziarie, al di là delle condanne o non condanne, c'è, come dire, un'etica tirata con l'elastico. Prima volevo dire solo una cosa su questa cosa dell'inceneritore. Sì, l'inceneritore non lo fanno, salvo poi avere il decreto Clini con cui sostanzialmente ci vogliono infilare i rifiuti all'interno dei cementifici. Ne abbiamo due in Trentino, uno nella zona di Sarchio e uno a Riva del Garda. Interpellato su questo argomento, l'assessore, chiamo sempre assessore, il presidente Pacchia, pro tempore, facente funzione, Pacchia, ha detto prima, non lo so cosa faremo, non si sa, sei presidente, vedi tu, e poi ha detto, vabbè, ma se a Roma hanno detto che non c'è pericolo per la salute, non c'è pericolo per la salute, e non ci sentiamo tutti più tranquilli. All'epoca, il titolo è Gli incontri VIP e la cabina di regia. All'epoca delle indagini della procura a Roncegno, gli abitanti parlano dell'ex cava di Montezaccon, sito di ripristino ambientale, chiamandola il discaricone. Il traffico di camion di diversa provenienza, che arrivano pieni e se ne vanno vuoti a tutte le ore, non è passato inosservato. Intanto Simone Gosetti, che è l'imprenditore di cui si parlava prima, quello dei rifiuti, Maidomo, sta lavorando ad un potenziamento di quello strappo nella roccia. Zaccon, in dialetto trentino, significa morso, e Monte Zaccon, già morsicato, è considerato dal titolare di ripristini Val Sugana il luogo ideale per una discarica ufficiale. Ancora una volta sono le annotazioni della polizia giudiziaria ad aiutarci a fare il quadro della situazione. Gosetti, scrivono gli agenti forestali del NIPAF, lavora su tutti i fronti al fine di raggiungere i suoi scopi e si dà da fare per organizzare, con l'appoggio di Gardelli. Gardelli è il dirigente di cui abbiamo parlato prima, quello che dal servizio rifiuti passa agli enti locali e peraltro ha ottenuto anche dei bei posti, delle belle poltrone in alcuni CDA di società pubbliche trentine, un incontro con l'assessore Gilmozzi, Mauro Gilmozzi, assessore all'urbanistica, vedete che i nomi e i cognomi non mancano, negli enti locali della provincia di Trento. In ambito municipale, cioè a Roncegno, Gosetti dovrà riferire del progetto della futura discarica all'apposita commissione del comune, alla quale dovrà anche illustrare tutto il discorso relativo alla possibilità di derogare a quanto previsto dalla normativa sulle discariche. Insomma, si parla di un disegno importante, il catino di Zaccon è strategico. La questione della deroga impensierisce Gosetti, che infatti propone a Gardelli, che è un dirigente della provincia di cui si parlava prima, promosso, propone a Gardelli di utilizzare qualcuno dell'APA che identifica nell'ingegner Giancarlo Anderle in qualità di responsabile dell'unità operativa tutela dell'aria. Gardelli acconsente e chiede a Gosetti di contattare autonomamente Anderle. Gosetti avvisa quindi il sindaco, che è già informato di tutto, e propone un incontro a tre: lui, il vice sindaco e Anderle, a cui illustrerà il progetto in previsione del successivo incontro con la commissione. Il 13 giugno 2008 gli inquirenti registrano una conversazione tra l'imprenditore Gosetti e il funzionario provinciale Gardelli. L'obiettivo è organizzare un incontro con qualche tecnico APA in vista della deroga per la trasformazione dell'ex cava di Monte Zaccon. Gosetti chiede espressamente che venga mandato Giancarlo Anderle. Io sono Gosetti, giusto? Sì. Gosetti: volevano avere un incontro con qualcuno dell'APA, ne avevamo accennato forse qualche volta, che gli spiegasse che cos'è la deroga, se si dà, se non si dà, eccetera, eccetera. Perché a me non credono e quindi non c'è un cazzo da fare. La domanda era, allora, escludendo di mandare giù uno dei talebani, termine riferito ai dipendenti APA in visa al Gosetti, perché se no è, come dire, la domanda è, la persona giusta è Giancarlo e bisogna perlomeno fargli vedere la cosa prima, nel senso che lui... Certo. La riunione con la commissione del comune di Roncegno si tiene il 9 ottobre 2008 e il giorno dopo, annota la polizia giudiziaria, Anderle prontamente informa Gardelli che la riunione è andata molto bene, provocando il compiacimento del burocrate. L'unico neo è il fatto che la commissione non era a conoscenza che la responsabilità di autorizzare la discarica in deroga ricadrà solo sul sindaco di Roncegno. Sono le 8.33 del mattino del 10 ottobre quando Anderle chiama Gardelli. Io non mi ricordo mai, sono Anderle? Sei Gardelli. Ok. Questo è Anderle che parla, dirigente dell'app, dice: è andata secondo me benissimo, nel senso che loro, cioè, volevano informazioni sulla procedura innanzitutto, praticamente sulla via, la valutazione di impatto ambientale. Non ne hanno mai fatte in comune, quindi non sapevano i tempi, le partecipazioni, quello che dovevano farne. Era una delibera del Consiglio che dovevano fare, però mancavano tutte le basi. Poi dopo abbiamo parlato anche dei problemi sulle concentrazioni, però è stato soft, cioè proprio... Ah sì? Eh sì, l'unica preoccupazione che avevano è che alla fine, siccome autorizzano loro, la deroga è loro. Certo. Loro solo erano soltanto preoccupati della cosa, ma non sapevano, insomma, non sapevano niente neanche del resto. Anche tutte le autorizzazioni, cioè ci sarà il via, poi dopo c'è tutta una serie di autorizzazioni paesaggistiche, piuttosto che quella dei bacini montani, insomma... Vabbè, comunque la procedura gli abbiamo spiegato, è rimasto 2 ore e mezza, ma poi anche la commissione, sinceramente, quelli della minoranza sono ragionevolissimi. Bravissimi, bravissimi. Veramente. Una bellissima situazione. Sì, sì, sì, sì. Proprio una bellissima situazione, che è quasi la situazione ideale per fare un impianto. Sì, sì, ma anche per governare in comune, credo, se sono tutti così. Sì, sì, assolutamente sì. Va bene? Ma conseguentemente per fare un impianto è evidente che per governare in comune... Vabbè, non so se è merito di Vincenzo Sglavo, che è il sindaco di Roncenio, o dell'arsenico che hanno giù. Sarà l'arsenico. Sarà l'arsenico, probabilmente sì. È che a Levico non sono così e ne hanno tanto uguale. E il Trentino che non ti aspetti.